Chick, she, I need chick, but she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sack. Yeah, yeah, yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she and mine, I said, oh, got a stick chick, she's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick, yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. Know she's a stick, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. A stick yeah, yeah. A chick, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, a stick chick. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta click a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Meglio tardi che mai, come si dice. Slick Chick, Radio Wombat, 20:59, in estremo ritardo, siamo finalmente in onda. Beh, perché abbiamo avuto problemini tecnici qui nella Wombat regia, nella Wombat caverna, dove al freddo ci approntiamo, almeno io mi appronto per una nuova puntata, finalmente, perché appunto dopo aver tanto penato non mi riusciva, ma adesso finalmente i problemi tecnici sono brillantemente risolti, un altro caso risolto, e quindi posso finalmente allietarvi con questa puntata di oggi, di martedì 18 dicembre, puntata prenatalizia. E quindi non vi parlerò però invece di renne, di cose così, di Babbi Natale, cioè, boh, ma per chi mi avete preso? Anche perché poi effettivamente martedì prossimo è esattamente il 25, è proprio Natale, e chissà se ci sarò, e ancora non ve lo so dire, ma voi comunque provateci a mettervi in ascolto di Radio Wombat intorno alle 8, se siete proprio propositivi e pieni di speranza, un pochino dopo se siete più realisti, e insomma magari mi troverete, perché in fondo a Natale, ma che devo fare io, è molto probabile che sia qui con voi. E però iniziamo, perché qui sto chiacchierando, mi sto dilungando, e invece c'è da fare una puntata, che siamo già in ritardo, e la puntata è densa e piena di musica bellissima, perché la puntata di oggi vi ricordate che un po' di tempo fa avevamo parlato dei registi, i registi quelli, i presi bene, i registi burloni, simpaticoni, quelli che ci facevano tanto ridere, ad esempio Cronenberg, Kinky Doc, insomma, Lynch, ho buttato lì anche Lynch, sì, mi sa che vi ho torturato anche con Lynch. Insomma, ce n'era un po', e quindi in realtà questa puntata di oggi, dedicata appunto a un regista, non è un regista così tremendo, non è un qualcosa che vi farà desiderare di tagliarvi le vene istantaneamente, perché si tratta di Shane Meadows. Probabilmente questo nome vi suona familiare, ma forse no, non è detto. Ma quando andremo un po' avanti nella scaletta farete: ah, ecco, era quel regista lì che ha fatto quel film lì. Ma io non voglio precorrere i tempi, non voglio andare troppo avanti, e non vi svelo qual è quel film che tutti avete visto, tutti e tutte, e se non l'avete visto, cioè, è gravissimo. e che ha fatto Shane Meadows. Non ve lo voglio ancora svelare. Beh, però vi posso intanto dare degli indizi, citando il Mucchio, la rivista, che riguardo a Shane Meadows dice, riguardo ai suoi film più che altro, una Gran Bretagna brutta, sporca e cattiva. Però con le sue storie, spesso filtrate dallo sguardo di adolescenti, che riescono a raggiungere il cuore dello spettatore proprio grazie a un'esuberante emotività. I sentimenti sono il motore delle azioni disperate di personaggi arrabbiati, solitari, che trovano conforto soltanto grazie a famiglie allargate. E beh, sì, dai, già qui si capisce un po'. I film di Shane Meadows, regista britannico di cui parleremo durante il corso di questa puntata, e che poi, insomma, vi dirò un po' meglio, vi racconterò un po' meglio, vi dirò un po' chi è, che cosa fa, a parte i suoi film, anche un po' qualcosa della sua vita. I film di Shane Meadows, perché l'ho scelto? Oltre che essere film bellissimi, secondo me, sono pieni di musica. Proprio non ne possono fare a meno. È evidente che Shane Meadows ha un'urgenza di parlare attraverso la musica, non solo attraverso il cinema, ma lo vedremo. Una sua intervista, per esempio, dice: quando ero ragazzino, mio padre ascoltava un sacco di rockabilly e vecchio rock and roll, gente come Billie Holiday. Mia madre invece adorava la Motown. Mia sorella poi era in fissa con i New Romantic. Invece io ascoltavo lo ska, che era la musica degli skinhead. Crescere in quel posto mi ha fatto apprezzare musica di tutti i tipi. È stato come ascoltare in continuazione un mixtape con suoni differenti che si mescolavano tra loro. Sono sempre stato circondato dalla musica. Ecco perché i miei film ne sono pieni. I go crazy on the weekend. Coming last, speaking, I'm a freak. Wasted all my money on some brown face, honey, now I can hardly speak. Dream, dream, you are just a lucky star, so light up, blow my lungs away. Dream, dream, think I'm gonna be somebody. Feels like I'm losing my way, losing my way. I'm a sucker for my woman, hair, legs, breasts and fame. Wasted all my money now, it ain't funny. We can't even aim. Dream, dream, you are just a lucky star, so light up, blow my lungs away. Dream, dream, think I'm gonna be somebody. Feels like I'm losing my way, losing my way. Questa, per esempio, era Sun House, Crazy on the Weekend, cioè Sun House, nome del gruppo, e Crazy on the Weekend, il nome del brano, tratta da Small Time, il primo film di cui vi parlo questa sera, del 1996. Shane Meadows, parliamo meglio di lui, inquadriamolo meglio. Nato il 26 dicembre del 1972, suo padre era un camionista. E la madre lavorava in un fish and chips. Un giorno il padre scopre il cadavere di una bambina. Succede questa cosa e viene inizialmente sospettato dell'omicidio. Shane Meadows di lì inizia a non passarsela benissimo perché viene bullizzato, abbastanza brutalizzato da parte dagli altri ragazzini a scuola. Questo sarà un episodio e insomma, un'esperienza che si porterà dietro. Non a caso i suoi film trasudano di tutto ciò, e e finisce in un giro di cosiddetta di piccola criminalità. A 20 anni si trasferisce a Nottingham e inizia a girare film, tantissimi film, più che altro cortometraggi, una trentina circa, prodotti insieme ai suoi amici con cui inizia ad avere una sorta di crew, ecco, un bel gruppo affiatato. Questi film non li vede nessuno perché non c'è nessun festival da quelle parti. E allora gli amici ne inventano uno in un cinema del posto, un festival che poi tra l'altro diventa presto famoso. E queste sono un po' le atmosfere che già soltanto, anche solo raccontando questi primi dettagli, si trovano in Small Time, appunto il primo lungometraggio di Shane Meadows del 1996. Ma subito nel 1997, l'anno dopo, Shane Meadows pubblica 24/7 in italiano, ovvero 24/7, un film che forse invece avrete visto, molto molto bello, vi consiglio assolutamente. La maggior parte dei film di Shane Meadows è ambientato nelle Midlands. Qualcuno potrebbe far venire in mente Ken Loach, inevitabilmente, ma boh, secondo me i suoi film sono meno didascalici, meno costruiti e sono invece più intimi e vividi in un certo senso. Le storie che racconta Meadows sono le sue, non quelle di qualcun altro, che devono un po' essere d'esempio, ecco. Si vede proprio attraverso le immagini, attraverso la musica, che è sempre musica anche questa, molto vissuta e molto sentita da Shane Meadows, come sentiremo. 24/7, 24/7 è ambientato in un meglio precisato sobborgo della periferia industriale britannica e racconta la storia di Darcy, interpretato fra l'altro da Bob Hoskins. Che, beh, qui insomma, un po' un nomone, che tra l'altro è bellissimo e bravissimo in questo film. E, insomma, la storia di questo Darcy, del suo tentativo di tenere in vita una palestra di pugilato alla fine di dare speranza e qualcosa in cui credere a un gruppo di giovani del luogo. E ovviamente anche qui 24/7 è ispirato all'adolescenza di Shane Meadows per sua stessa ammissione, quando faceva pugilato e giocava in una squadra di football. Un po' questa è un po' probabilmente la sua dedica ai suoi compagni di squadra e soprattutto forse al suo coach, al suo allenatore, insomma, a chi ci prova. Attraverso lo sport e il modo in cui si fa e si pratica lo sport riesce a salvare in qualche maniera molte vite. Quindi Shane Meadows lo dedicava a queste persone e io mi sento di dedicare questo film e la canzone estratta che vi faccio sentire alle palestre popolari sparse un po' in tutta Italia e anche a quelle di Firenze, insomma, che fanno un gran lavoro e senza le quali saremmo sicuramente molto molto peggio. Tratto da appunto 24/7, 24/7, dalla colonna musica Beth Orton, I Wish I Never Saw the Sunshine. just like the day before. All alone, a million miles from shore. All of my dreams I dream with you. Now they will die and never come true. And I keep crying, crying. Avevo detto che non era proprio da tagliarsi le vene, però in effetti finora non è neanche super allegrotto, va bene, però non è vero, perché poi vi sorprenderà questo Shane Meadows. Proseguiamo, perché dopo il 97, dopo 24/7, arriviamo al 1999 con A Room for Romeo Brass, un film che io credo che in Italia non sia neanche uscito, ed è veramente un peccato perché è bellissimo. E tra l'altro, se guardate, uno dei due giovanissimi protagonisti, l'attore, già vi darebbe un indizio sul film segreto nascosto che vi svelerò solo a breve. Ma non vi dico altro. A Room for Romeo Brass è ispirato a quando Paul Fraser, ovvero il miglior amico di Shane Meadows, che peraltro era suo vicino e futuro coautore, l'autore delle sceneggiature di una buona parte dei suoi film, ebbe un brutto incidente, insomma, Paul Fraser, questo suo amico, è un incidente che lo costrinse a letto per 2 anni. E Shane Meadows gli rimase accanto per tutto il tempo, insieme ai ceffi più brutti del quartiere. E quindi anche qui siamo a un omaggio a qualcosa che Shane Meadows racconta perché l'ha vissuto e perché sa di cosa parla. Infatti questo film prova a disegnare il delicato equilibrio che si viene a creare tra due dodicenni, quindi proprio pischelli, il bianco Gavin, bianchissimo Gavin, britannicissimo Gavin, e il invece nero, mulatto, insomma, non tanto bianco, Romeo. Nelle Midlands, tutto ciò, nelle Midlands dei primi anni 80, ridenti direi Midlands dei primi anni 80, nonostante una famiglia disastrata, separazioni, sindrome di Peter Pan cosiddette, insomma, problemi economici, ore che trascorrono lente, noia e quant'altro. Gavin e Romeo riescono a creare un microcosmo autonomo dalle nevrosi familiari in una complicità ironica e fraterna. E questo probabilmente è un po' il succo di tutta la poetica, o perlomeno gran parte, di quella meglio riuscita di Shane Meadows. Qui, sempre per lasciare spazio alla musica, che è tanta e molto bella, ci ascoltiamo di P. Arnold, no, Everything's Gonna Be Alright. Everybody's gonna say that everything is alright. Cause if they don't, then boy, there's gonna be a fight. Ooh, I got a little beef by you. It's all I got and it's nothing new. face before my eyes, Lady Rose. And Lady Rose, oh Lady, my rose, my Lady Rose. Lost in memories of the moment, of the time spent, of the days when Lady Rose. And Lady Rose, oh Lady, my rose, my Lady Rose. Ah, Lady Rose, ah, Lady Rose, my lady, my lady. Oh Lady, my rose, my Lady Rose. Lady Rose, oh Lady Rose, my lady, Radio Wombat, Slick Chick. Vi ricordo i social Wombat perché ancora non l'ho fatto, il sito innanzitutto wombat.noblogs.org, dal quale ci potete ovviamente ascoltare. Vi dico, se non lo sapete già, che c'è anche una nuova app. Voi che siete animaletti tecnologici, non come me, più che altro social cosi, se volete, perché vi sentite un po' più web 3.0, potete usare la nostra meravigliosa e sbrilluccicante app che trovate per l'appunto sul sito wombat.noblogs.org, versione 2.0, questa app che oltre ad ascoltarci in streaming vi permette di ascoltare agilmente dai vostri aggeggi il podcast delle puntate quindi registrate. Poi vi ricordo anche la casella di posta, posta wombat@insiberia.net, e ovviamente la nostra frequenza che ormai dovreste aver imparato, e se non l'avete imparato fatelo. Consiglio anche dei tatuaggi perché comunque è bello, fa un po' retro. 13:59 AM, onde mediocri, sempre che siate raggiunti dal nostro Wombat segnale. Allora, Mango Jerry abbiamo ascoltato, Lady Rose, sembrava un po' i T-Rex, ma invece no. Sicuramente però eravamo sul glam, perché come dicevamo, Shane Meadows, il regista a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, è un regista che attinge un po' a tutta la sottocultura, tutte le varie sottoculture, controculture inglesi, britanniche in particolare, o comunque quelle a cui lui ha potuto attingere nel corso della sua vita, della sua adolescenza e maturità. E quindi siamo passati dal folk al soul, come prima, adesso siamo piombati nel glam, perché un po' tutto fa parte di quel mondo, che lo si voglia o no. Ad esempio, questa canzone che ci siamo appena ascoltati e la prossima che ci stiamo per ascoltare sono contenuti nella colonna musica, oddio, sennò poi la Virgi si arrabbia, la colonna musica di C'era una volta in Inghilterra, ovvero Once Upon a Time in Midlands, il titolo originario, film del 2002, la cui trama brutalmente è uno scapestrato padre di famiglia che cerca maldestramente di riconquistare l'ex moglie prima che lei si risposi con un improbabile pretendente. Effettivamente poi, se guardiamo e mettiamo in fila un po' tutti i film, o gran parte di essi, ma forse anche tutti i film di Shane Meadows, quello che ne viene fuori è un ritratto della mascolinità molto raffinato, molto profondo e mai banale, perché è una mascolinità nelle varie età, tra l'altro, che affronta Shane Meadows, perché si passa dai bambini agli adolescenti, ai ragazzi più grandi, agli adulti e in parte anche agli anziani, anche se meno, ma insomma tutte le varie età, e gli uomini sono sempre degli uomini fragili, complessi, fragili ma anche forti in qualche maniera, cioè con una fragilità non depressa, una fragilità non definitiva, come dire. E quindi degli uomini che sono capaci di mostrare molti volti diversi e una sfaccettatura del carattere complessa, mai stereotipata come invece si vorrebbe. Non a caso, insomma, Shane Meadows sceglie con cura la musica con cui accompagnare i suoi film, e non a caso anche qui c'è un po' di glam, ma c'è anche altro, come ad esempio ci insegna Wendy René con Barbecue. Non posso non dedicare la puntata di stasera a quei due loschi figuri di Rude Boys della svolta Sound System, e che d'altra parte era una dedica ovvia, scontata, ma la dovevo fare. Ma proseguiamo, perché qua la scaletta è ancora bella lunga, perché siamo ancora all'inizio del 2000 e bisogna arrivare quasi quasi al giorno d'oggi. Beh, vabbè, salteremo un po' di anni, non vi preoccupate. Comunque, 2004, Shane Meadows fa uscire Dead Man Shows, 5 giorni di vendetta in italiano, per la serie Le meravigliose traduzioni del cinema italiano, è così. Dead Man Shoes racconta un'altra storia vera, perché come avrete capito, insomma, Shane Meadows è abbastanza, è un po' la sua cifra, ecco, un amico di, anche qui, storia vera della vita, tratta, proprio estratta dalla vita di Shane Meadows in persona. Un amico di Meadows viene bullizzato a scuola quando Meadows è ancora piccolo, quando Shane Meadows era piccolo, e poi insomma la vita di questo ragazzo chiaramente inizia a andare un po' a rotoli, si ritrova dipendente dalle droghe e alla fine si suicida. Shane Meadows, parlando di questo film al tempo, disse: "Non potevo credere che 10 anni dopo nessuno in città si ricordasse di lui. Era come se non fosse mai esistito. Mi salì una rabbia enorme verso i ragazzini che l'avevano bullizzato e spinto verso le droghe. Una rabbia enorme verso ciò che la disperazione e la droga aveva fatto a quella piccola comunità." E ci ascoltiamo intanto un primo brano tratto da questo Dead Man Shoes, che è dei Cul-de-sac, sì, e il brano si intitola I Remember Nothing More. I Un'altra musica, un altro brano ci ascolteremo adesso, tratto sempre da Dead Man's Shoes, fra l'altro probabilmente uno dei film più scuri di Shane Meadows. È sempre virgolettato, sempre un'intervista di Shane Meadows, dice: sono cresciuto in un luogo in cui il bullismo era quotidiano, la violenza faceva parte della cultura delle persone che vivevano lì, il tuo posto nella società era dettato dalla fisicità e la voglia di scatenare una rissa. Io sono sopravvissuto a quell'ambiente, ma l'unica possibilità di scelta era tra l'essere una vittima o un carnefice. Ricordo di aver assistito a scene orribili senza che potessi farci nulla e soffrivo da morire. Da questo sentimento è nato Dead Man's Shoes, perché tu puoi maltrattare qualcuno senza essere punito, ma poi stai certo che a un certo punto giungerà il momento della vendetta, intendo una vendetta biblica. È un modo per dire che quelle persone maltrattate non saranno dimenticate. Questo invece è un brano piccolo e singolare, veramente, dei Lucky Dragons, Heartbreaker. Eccolo qua. arriviamo al 2006 e arriviamo anche al film misterioso, che è il film che vi dicevo all'inizio trasmissione, quello che vi farà dire: ah, ecco dove avevo sentito il nome di Shane Meadows. Questo film è This is England. Forse qualcuna già aveva intuito. E questo, dice Shane Meadows, da ragazzino ho potuto osservare la rabbia sociale dei bianchi trasformarsi in atti di violenza verso la comunità asiatica. Gente che distruggeva negozi, faceva opera di vandalismo e tormentava famiglie che non avevano nessuna colpa. Io non sono un politico, ma la vita mi ha mostrato come spesso la rabbia di chi è senza lavoro diventa violenza verso le vittime più facili, perché spesso ciò che la gente arrabbiata vuole è soltanto trovare qualcuno da incolpare e potersi sfogare. Questo è This is England. luglio 1983, ultimo giorno di scuola, il 12enne Sean è un ragazzo isolato, cresciuto in una sperduta cittadina di mare. Il padre è morto nella guerra delle Falkland. Tornando a casa, Sean incontra Woody e i suoi amici skinhead. E da lì si apre un mondo. This is England è un film, come faccio a spiegarvelo? Se non l'avete visto, dovete vederlo, perché immancabile. Un film a corale, pieno di voci, di qualsiasi voce approfondita, però non mai una pennellata data a caso, cioè ogni voce viene rappresentata, gli viene dato ascolto, anche quelle voci che non vorremmo sentire, perché per esempio ci sono tante voci anche del National Front, quando si infila nel mezzo il movimento skinhead, il movimento chiamiamolo così, comunque la controcultura, sottocultura skinhead, e la devasta in buona parte, ne prende il meglio e la calpesta. Eppure in This is England c'è anche questa voce, viene capita, compresa, e fa di questo film probabilmente uno, almeno a mio vedere, uno dei pochissimi film onesti, veramente onesti, sulla cultura skinhead, dei Rude Boys, tutto quel mondo che è vasto, colorato, complesso e ricco anche, che poi peraltro è vero che in qualche modo è stato un po' un mondo di una certa epoca, legato a una certa epoca e legato ad alcuni luoghi, ma poi in fondo se è arrivato fin qui, come è arrivato, e se ancora adesso la cultura skinhead esiste, evidentemente aveva in sé qualcosa di non così singolare, ma che invece aveva anche qualcosa di più universale, più condiviso, ecco. E tutto ciò c'è, secondo me, in maniera veramente sincera e molto molto profonda e ben scandagliata dentro questo meraviglioso film This is England di Shane Meadows. Però dobbiamo andare avanti, ahimè, anche se ci staremo un po' su questo film, perché ha una colonna musica incredibile e bellissima che vi consiglio di ascoltare. Il prossimo pezzo che ci ascoltiamo, sempre tratto da appunto This is England, è l'ho già messo sulla console, non lo vedevo più. Sì, è ovviamente Morning Sun di Halle Berry e The Cimarrons. She was waiting so impatiently. se non sapete di cosa sto parlando, o lo sapete, ma insomma vi manca qualche pezzetto, vi consiglio anche, perché fa un po' il pari con questo film di Sissi Inglod, vi consiglio anche i libri di Riccardo Pedrini e di Valerio Marchi, tra tutti, proprio su tutti, e in particolare Skinhead di Riccardo Pedrini è bellissimo, ma anche gli altri di Valerio Marchi, insomma, fatevi una cultura per favore, perché ce n'è bisogno e non basta, siamo nel 2019 e parlare a sproposito degli skinhead è veramente a questo punto colpevole. Tornando a This is England, siccome beh, quando si dice This is England, tutti hanno, chi l'ha visto, ha in mente alcune scene sicuramente, qualche sensazione e la colonna musica, e in particolare Einaudi, Ludovico Einaudi, che entra a gamba tesa e è imperversa nella colonna musica di questo film. Apparentemente in maniera bizzarra, perché insomma, comunque è un film sugli skinhead, su un mondo di cui, beh, Einaudi, insomma, che avrà da dire? E così ci racconta Shane Meadows questa sua scelta. Stavo montando This is England, ma non riuscivo a finire. Il risultato era buono, ma non ottimo. Musicalmente non riuscivo a esprimere le emozioni del ragazzino. Ero stato invitato dal Toronto Film Festival e avevo deciso di accettare. Per prendermi una pausa e cercare l'ispirazione. Andando verso l'aeroporto, la radio del taxi era sintonizzata. Le radio sono sempre galeotte. La radio del taxi era sintonizzata su un canale di musica classica. Non sapevo cosa stessi ascoltando e mentre pensavo alla mia giovinezza, mi sono accorto che avevo la pelle d'oca. Ho capito che quella musica mi emozionava tantissimo, mi faceva pensare a quel periodo doloroso della mia vita. Così ho chiesto al tassista di chi fosse quella musica, ma non avevo con me una penna, quindi non sono riuscito a segnarmi il suo nome. Arrivato in Canada, sono subito andato in un negozio di dischi, ma ormai ero convinto che il musicista si chiamasse Larry von Thut o qualcosa del genere. Io lo capisco tantissimo, Shane Meadows, a me mi capita continuamente. Per questo, ovviamente, non sono riuscito a trovare il disco. Ma appena sono tornato in Inghilterra, lo giuro, ho trovato ancora quel tassista e la radio stava passando di nuovo quel brano. Dopo una settimana ero a Milano, a casa di Ludovico Einaudi. È stato come un miracolo. Poi lui ha scritto della bellissima musica per il film e il produttore mi ha dato del pazzo a voler utilizzare quella musica per un film sugli skinhead. E invece, senza il film non sarebbe stato lo stesso, ma peggiore. E in effetti, come dargli torto a Shane Meadows, questo brano ti tiene per mano quando stracolmo di lacrime guardi l'ultima magnifica scena di questo film, riassunto di tutto un mondo, di una cultura, di svariate, svariate generazioni, fuori dal mondo di Ludovico Einaudi. Thank you. E beh, e poi tocca anche dedicare, fare un'altra dedica a Granenco che ci ascolta dalle Midlands pratesi, della provincia pratese, quindi anche a lui non possiamo non dedicare queste atmosfere, anche lui ne sa un po' di questo, di tutto ciò, di tutto questo mondo. Andando avanti, siamo quasi a fine, non ci manca tantissimo, ma ancora una manciata di film e una manciata di brani musicali. 2008, facciamo un po' un salto. 2008, Summer's Town. Summer's Town è un bellissimo film, anche questo, molto meno conosciuto di This Is England, ma che vale veramente la pena di vedere. Tomo è un adolescente in fuga dalla solitudine delle Midlands, che arriva a Londra in cerca di un posto dove stare. Marek vive invece a Somers Town ed è figlio di un immigrato polacco che lavora come operaio in una ferrovia. I due costruiranno un'amicizia semplice e sincera e si innamoreranno teneramente della stessa donna. Da Summer Towns, appunto, Gavin Clarkson, Ted Burns, Reese a Vine, chissà. Vain, era Vain, l'ha detto mille volte, infatti. Allora, la storia di This Is England però non era finita, pensavate, ma no, non era finita. Quegli skinhead, quei punk, quelle creature simili, continuano ad andarsene a spasso nella testa di Shane Meadows. E allora lui, come da progetto originale in realtà, dà corpo ad altri film, piccoli spezzoni riuniti in una serie divisa in 3 stagioni. E This Is England 86, 88, sì, 86, 88 e 90, sì, arriva fino al 90. Possiamo così, insomma, accompagnare i nostri negli anni nel passare delle controculture, delle tragedie e dei mutamenti. E quindi, beh, sì, poi. Fra l'altro, c'è anche modo, attraverso chiaramente uno spazio più lungo che non quello del singolo film, di sviluppare meglio i caratteri dei personaggi, dinamiche che in This Is England erano state appena accennate. Insomma, c'è molto più spazio e molto più spazio per devastarci, perché peraltro le serie riescono a essere addirittura più tremende e più tragiche dello stesso This Is England. Quindi, insomma, guardatelo con le molle, una certa predisposizione d'animo. Questi sono, non potevano non esserci, gli Style Council Walls Come Tumbling Down, tratti proprio da This Is England 86 del 2010. Thank you. siamo nel 2011 ed esce This is England 88, altra serie in tre episodi. Quella di prima dell'86 erano due episodi, con questi arriviamo a cinque. Dice Shane Meadows, in This is England c'era un grande divario tra l'età di Thomas, ovvero l'attore che interpreta il personaggio di Sean in This is England e anche nella serie ovviamente, che aveva 12 anni, e quella degli altri attori. Allora non uscivano in gruppo, non si frequentavano, abbastanza ovviamente. Da This is England 86 invece fanno follie tutti assieme. Spesso fanno delle feste incredibili e quando devono andare sul set partono già sbronzi dall'hotel. All'inizio non avevano molto in comune, ma ora sono cresciuti insieme e non hanno bisogno di stare sul set per essere grandi amici. Lo sono e probabilmente lo saranno per tutta la vita. E beh, direi che questa cosa si intuisce un bel po' guardando i film e le serie. Questo invece tratto da This is England 88, è il penultimo brano di questa scaletta, e sono gli Smiths. Non potevano anche loro non esserci. What difference does it make? I stole and then I lied just because you asked me to. arriviamo all'ultimo film di questa scaletta con l'ultimo brano, il 2015, abbastanza vicini. This is England 90, un'altra serie di 4 episodi questa volta, e si va avanti, insomma, si arriva fino agli anni 90. Chiaramente c'è anche molta dub, house, elettronica inglese in questa serie, il primo rave dei nostri, ecco. E beh, non sarà musica da rave che vi faccio ascoltare, ma insomma, io comunque applico dei filtri che sono i miei gusti personali, dovete farvene una ragione. Insomma, con questo ultimo brano vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo. Davvero vi consiglio, se non l'avete, se non conoscevate Shane Meadows, o se conoscevate magari soltanto This Is England, di andare a dare uno sguardo agli altri film, perché in questo momento in cui tutti ci sentiamo sotto assedio, mi sento di dire, e ha ragione, peraltro, i film di Shane Meadows fanno veramente bene, proprio ti fanno stare bene, nonostante siano a volte pesanti e tristi, ma non lo sono mai in maniera disperata, ti lasciano sempre qualcosa addosso di bello. E quindi quantomeno fosse una ritrovata, rinnovata fiducia nelle nostre comunità e nell'autogestione tutta, ecco. E quindi con questo augurio di ritrovare e ripigliarvi un po' e di non sentirvi troppo sotto assedio dati i tristi tempi, vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo, forse, chissà, perché insomma è Natale, ve l'ho già detto che non lo so se ci sono, se no vi lascerò in compagnia della bobina, o chissà, magari di uno speciale, non lo so, per saperlo dovete per forza sintonizzarvi su Radio Wombat. E il prossimo brano con cui invece vi lascio, vi faccio andare a dormire, è dei Lace, scusate, l'ho letto proprio brutale all'italiana, There She Goes. Ciao ciao. Thank you.